Si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Il corpo è una cosa intima e mai come in questo momento ci siamo trovate a contatto. All'inizio l'ho ascoltato come un oggetto estraneo, cercando di capire se il virus ne era entrato. Poi l'ho viziato con cibo e bevande per tenerlo occupato e distrarlo dalla noia. L'ho farcito per bene, fin quando non ho sentito il suo lamento. Il lamento di essere fermo, immobile, solo, rinchiuso e non ascoltato. E quindi è iniziato la ricerca di me, me corporea, nascosta. Sospensione dell'esperienza corporea, sensoriale e relazionale. Che memoria ne resta? Che traccia e traumi porteremo nel dopo? Corpo visibile o corpo invisibile? Corpo premiato o scartato? Promosso o bocciato? Sano o malato? Accolto o schivato? Corpo timido, corpo ritirato. Il corpo che io sono somatizza. Il corpo che io sono, della quarantena da qualche parte nascosta quella privazione, quello strappo, quella rabbia, quella paura, quel parlare. La cerco in questo oggi che è un'incognita, forse una trappola, in apparenza stucco sulla crepa. Il corpo che io sono somatizza. In qualche parte di me si sono nascosti e incistati questi giorni. Ma dove? Nelle pieghe dei polmoni dove dorme la tristezza, nei reni dove è la paura, nell'intestino che è uguale alla testa o nel fegato dove è imprigionata la rabbia. Abitare un corpo può essere un fatto solitario se si vive solo dentro e non in relazione. Se non mi tocchi, non so chi sono. Senza altri corpi che mi delimitano, mi smargino in una dimensione fatta solo di pensiero, monade impazzita che rimbalza sui campi magnetici delle altre nel frenetico balletto del distanziamento. Qual è la misura del nostro distacco? Qual è la misura della nostra vicinanza? Erotica depone, romantica un poco, afonica un poco, itionica te enferma, de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, te forma atea, gracias a Dios es atea. In questo momento vivo in un paese che dopo 7 settimane di confinamento ha deciso di tornare alla cosiddetta normalità. Sono tesa e cammino per strada cercando di evitare le altre persone che mi vengono incontro. Mantengo le distanze. Mi chiedo, ma quanto ho interiorizzato queste restrizioni? Il mio corpo è contratto, mi sento chiusa verso me stessa e verso gli altri. Anche con le amiche che incontro ci guardiamo negli occhi e si cerca di capire come ci vogliamo salutare. Alcune scherzano e altre, come me, non sanno come fare e aspettano un cenno dall'altra persona. Il consenso attraverso gli occhi e i gesti. Filtri, metri, schermi, distanza. L'altro giorno, in pieno Covid-19, ho conosciuto una persona. Era un incontro a cui tenevo molto. Ero piena di dermatite sul viso, mi preparavo ed ero a disagio. Non è il giorno giusto, mi sento un schifo. Poi è arrivata e ho messo la mascherina. Una delle prime volte che la metto, una bellissima mascherina fucsia di cotone. Ho provato un sollievo immediato. Occhiali da sole, mascherina, capelli sciolti a coprire la fronte. Distanza di almeno 1 metro, meglio se 2. Anche lei, occhiali da sole e mascherina. Voce, postura, dolcezza, piccoli movimenti, il corpo che parla, che eccede, comunque, sempre, anche dietro una maschera, anche nella distanza, anche dietro uno schermo. Don't be so hard on yourself, you say. There is nothing I can do, there is nothing I can do. Been loved by you. This is pretty, pretty new. Passo i giorni davanti al PC in stupide video riunioni, più di 30 ore a settimana in piattaforma. Tornata studente, i miei compagni e compagne hanno perso il loro corpo, il loro stare nello spazio, la loro fisicità. Sono diventati volti pallidi dietro uno schermo, che spariscono se non c'è connessione. No, merende, no, chiacchiere, no, sguardi. Sono alienata. Dopo 8 ore arrivo a sera spenta, occhi che bruciano, cervello frantumato. Cucino e mangio e vado a dormire. La didattica in assenza è una merda. Non voglio vivere così. Io non lo guardavo da tempo il mio corpo, o forse non l'ho mai ascoltato, finché a un certo punto si è fatto sentire lui. Corpo fermo, chiuso, corpo teso. La testa può spaziare, ma il corpo ha bisogno di spazio. È difficile per me stare dove i corpi non ci sono, ma solo pixel. E allora tocco e sento il mio, come per sentire ed essere più vicina a quello delle altre. Corpo che scalpita, una porta a cui bussa la rabbia e la paura, e a volte non so che cosa farci. Ho imparato a ringraziarlo, sto imparando ad assecondarlo, forse perché è più saggio di me. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Da quando è iniziato il lockdown ho questa sensazione di dovermi allenare. Allenarmi tutti i giorni. Ho corso, ho sommato una quantità di chilometri dentro un recinto di 400 metri lineari. Non so quanti giri fanno, ma ho corso come un fottuto criceto. E allenarmi per cosa? E questa sensazione di dover essere pronta al rientro. A quale rientro ancora non mi è chiaro, però fondamentalmente al lavoro. Al lavoro, il mio lavoro per me è faticoso fisicamente. Io sono sempre sul filo del fuori età, fuori peso, fuori forma. Mi sento sempre sul filo del fuori, fuori dalle idoneità al mio lavoro. E quindi mi alleno. Chissà se servirà a qualcosa. Beh, a qualcosa servirà. Forse il lavoro non me ne fregherà più niente, però. Corpo segnato, dolorante, rotto. Strappato a me era già altro e io altra da tempo, senza recupero, frattura. Ascoltalo, prenditene cura e guariscilo. Grande il fastidio delle retoriche e pratiche salutiste, mainstream o alternative che siano in questa spaventosa fase 2. Il corpo, quando si oppone agli eventi, quando non si fa attraversare dalla bufera rimanendo in piedi, si spezza, cade a terra e vi rimane rotto. Fratture multiple, fratture che non si ricompongono, fratture scomode che non fanno funzionare la vita e i magnifici progetti individuali. Fratture come granelli fastidiosi nel meccanismo della giostra luccicante sulla quale siamo. Non ho voglia di pensare al mio corpo, non di nuovo almeno, e non nel senso della cura di me. La mia dimensione di cura, limata negli anni in equilibrio perfetto tra sfascio e pratiche di benessere olistiche, mi va bene così. Quello che mi piace di più, da tempo e ora più che mai, è l'osservazione del movimento del corpo nello spazio. Il mio corpo e quello delle altre e degli altri, vicine o vicini, o sconosciute e sconosciuti che siano. La comunicazione non verbale, insomma, se così la vogliamo chiamare. La pelle è margine, frontiera, che mette in relazione il fuori con il dentro. L'epidermide è il terreno delle sensazioni, il campo su cui il mondo ci sbatte addosso per cambiarci e includerci. Il mio corpo lesbico, che nasce tra le tue mani, amante di oggi, compagna di sempre, forma plasmata dall'intelligenza erotica di altre che prima di me hanno capito che è nella relazione che ci definiamo. Stammi lontana, ma non troppo. Anzi, no, vieni più vicino. Fase 1 e fase 2 per me, per il mio corpo, cuore e mente, assomigliano molto alla fase preistorica del corona. Infatti Infatti, come prima del virus, il mio desiderio era stare con lei, nel suo letto o nel mio letto. E ora, dopo il virus, il desiderio è rimasto lo stesso. E come prima io sto nel mio letto, sola, solo il mio corpo, senza il suo corpo, senza di lei. Ha poco senso per me dividere il tempo in avanti corona e dopo corona. In questi mesi ho cambiato tanti letti dove ho dormito sempre senza di lei. Ho abitato tante case dove ho mangiato, dormito, ballato e letto senza di lei. Da un mese la svolta che c'è stata è stata quella di tornare nella casa un po' più mia delle altre, ma è rimasta una costante, la sua assenza. Il mio corpo reclama il suo e lo reclama inutilmente. La speranza si fa sempre più sottile. You know, people say women should only eat yogurt and strawberry. They say a lot of things, but you know, I don't care what people say about my weight. So if you want to take me out for a date, make sure there is enough good food on my plate. And maybe I let you get a taste of my cake. Wittig scrive: dicono di coltivare il disordine in tutte le sue forme, la confusione, i turbamenti, le discussioni violente, gli smarrimenti, gli sconvolgimenti, i disturbi, le incoerenze, le irregolarità, le divergenze, le complicazioni, i disaccordi, le discordie, le collisioni, le polemiche, i dibattiti, le seccature, le risse, le dispute, i conflitti, gli sbandamenti, i disastri, i cataclismi, le perturbazioni, le liti, le agitazioni, le turbolenze, le deflagrazioni, il caos, l'anarchia. A guardare dall'alto il corpo sembrava un grande campo di prigionia. Isolato dagli altri, distante, in quarantena. La transazione dalla sanità alla follia fu senza scosse. Tutti i neuroni coinvolti nell'operazione furono attaccati esattamente nello stesso momento. Nessuna violenza, nessuna sensazione di frattura, nessun intontimento o dolore. Andai fuori di testa. La psicosi aveva caratteristiche piuttosto convenzionali. Allucinazioni paranoidi. Era strano anche l'attività sessuale, che era stata sempre fonte di sollievo, gioia e delizia. Da un giorno all'altro diventò un territorio sconosciuto. Ci vogliono circa 2 mesi per rendere un comportamento nuovo un'abitudine. Programma contro el hambre. Lai, lai. Dedico tempo ad ascoltare il corpo, a fare il check, come sto? Sto bene? Sto male? Sto così così? Il mio corpo è vulnerabile? Sono saltati i piani, sono saltati i codici di relazione, i parametri di saluto, di conversazione, di tempo insieme. Le parole corrono dalla mia bocca alle tue orecchie, percorrendo metri. La mascherina copre il labiale, comunicazione tra corpi filtrata da mascherina, da metri, da distanza. Distanza crea distanza, a volte rinuncio. Qualcosa resta non detto nella mia testa, il corpo trattiene. Le parole sono incomplete senza i gesti del corpo. Toccare la persona mentre parlo è abitudine, ma il virus mi impone nuove abitudini che tardano a naturalizzarsi. Catalogo il mio corpo al momento come sano o al momento non malato. Corpo ristretto a binomio salute e malattia. Corpo sanitario, il filtro sanitario che legge il mondo e prevale su tutto. Per alcuni di noi entrare in contatto con i virus era un problema anche prima. Quella che per molti era un'influenza, per altri poteva essere mortale. Penso a tutte quelle sorelle, amiche, compagne che affrontano percorsi di cura estremamente debilitanti e non possono permettersi un raffreddore. La salute è un calcolo complesso, un fragile equilibrio tra ciò che mi fa ammalare e ciò che mi fa star bene. Si può essere clinicamente sane e stare male, può essere terribilmente malate, ma felici della propria vita. In fondo, è tutta una questione di prospettiva. La cifra della nostra esistenza sta nel tentativo di risolvere questa equazione, un ricalcolo continuo di variabili che mutano incessantemente. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Scopro che tutto sommato, intorno a me la gente si muove come all'interno di una grandissima area cani. Si prendono distanze inaspettate, si fanno strani balletti in fila al supermercato per lasciar passare qualcuno, si oscilla sulle gambe buttando il peso del corpo all'indietro per simulare almeno una parvenza di spazio di vivibilità personale, quando altro non c'è. Ci si guarda, spesso lateralmente, cercando di intuire e prevenire il movimento dei corpi intorno a noi. Una nuova attenzione alla prossemica, appunto. E si curva, negli incontri per strada si curva. Proprio come farebbe un cane, mi ritrovo a muovere il mio corpo in forme morbide. La linea retta è male, è sfida, minaccia nel linguaggio animale, oppure grande, grandissima intimità. E quindi curve, in modo speculare all'altra o altro che ci si avvicina. Curvando ci stiamo dicendo, va tutto bene, c'è spazio, non serve invadersi. E paradossalmente sono felice. All'improvviso è una lingua che conosco e non mi sento più così aliena. So che non durerà, ma il pensiero breve e contingente di assomigliare tutte e tutti un po' più ai cani in qualche modo mi salva e salva il senso del mio corpo in questo nuovo spazio di relazione. La distanza a volte protegge. È come un cuscinetto che ammortizza, che addolcisce, che disegna uno spazio del possibile. La distanza come le maglie di una rete, ora più fitte, ora più larghe, rete di legame, potenti anche se invisibili, una rete che si allarga e che moltiplica lo spazio. Penso a quello slogan. La rue, la place, l'espace pour nous, la strada, la piazza, lo spazio per noi. Uno slogan gridato tante volte nelle piazze, allontanandoci sempre di più e occupando sempre più spazio, con le voci sempre più forti che rimbombano. A distanza occupiamo più spazio e quando gridiamo la nostra voce arriva più lontano. Il corpo che io sono da 2 mesi è un'altalena emotiva. Tutto sembra urgente, tocca e lacera. Poco dopo è passato, è ingiallito. Il pensiero di 1 mese fa sembra un inganno, un'ingenuità. Cosa ho somatizzato? Cosa ho radicato? Il corpo che io sono cammina per le strade, progetta di tagliare l'erba alta di un prato abbandonato per fare spazio a un cerchio. Il corpo che io sono vuole smaltire mondeggiando le scorie di questi giorni, pensare i pensieri che servono a pensare nuove idee, somatizzare la forza, moltiplicare le storie, con le sorelle, per formare la crepa, mentre la distanza diminuisce. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Oggi è una bella giornata e attraverso tutta la città a piedi affinché arrivo finalmente all'unica fonte d'acqua che si trova qui, un piccolo lago con acqua salata. Mi tuffo e nuoto, sento come le tensioni delle ultime settimane lentamente si sciolgono e sento finalmente il mio corpo che non sentivo da tanto tempo. Un momento di quiete interiore, molto prezioso in questo delirio che ci circonda. E adesso, come faremo? Noi da sempre abbiamo reso politico il nostro corpo. Spesso abbiamo scelto di rendere politico prima il corpo e poi l'intervento. Prima dell'intervento in piazza, prima dell'intervento in assemblea, prima dell'intervento in riunione, avevamo preparato il corpo. Io non ricordo nessun periodo come questo in cui il corpo è stato così tanto oggetto e soggetto delle discussioni governative. Sono mesi che la politica istituzionale descrive comportamenti che interessano i nostri corpi. Il distanziamento sociale è lo stare dei nostri corpi e diventa dominio pubblico. In questa confusione che influenza e influenzerà le nostre vite, le nostre relazioni, il nostro stare, penso che soltanto il consenso potrà essere realmente chiarificatore. Chiederlo o farlo capire. A che distanza vuoi stare tu da me? A che distanza voglio stare io da te? Corpi distanti e senza contatto. Quali possibilità abbiamo? Sorelle, amanti, stai ascoltando? Se lo fai, sappi che ogni lettera che ho detto non vuole scendere in piazza a chiedere permesso a padre e padroni. Scendo in piazza per parlare con te. Parlare di un contatto che mi hai detto di non conoscere. Un contatto che fa cadere le corone. E le teste che le portano. Ci sono delle crepe in cui vorrei infilarmi, fissure tra i muri, fenditure tra il cemento, un seme portato da chissà dove che entra e diventa pianta, piccoli fiori colorati. Respirare è la prima tecnica dell'autodifesa. Respirare ci salva la vita. Respiro e sono presente. Respiro nella paura e trovo la rabbia. Respiro nella rabbia e trovo la forza. Il respiro vive nel mio corpo. Il mio corpo abita lo spazio. Inspiro, il mio corpo prende spazio. Espiro, il mio corpo entra nella crepa. Inspiro, la mia rabbia spacca. Respiro, la mia rabbia è lotta. Il respiro è la mia forza. Voglio respirare con le mie compagne. Fiato, e però so troppo razionale. Ingrasso in fretta e bevo troppi alcolici. Che per una ragazza non se fa. Che sono troppo leaderistica, che faccio molto gruppo. Che sono strana, che amo troppo, è un po' troppo. Che non so stare da sola, che sto troppo da sola. Che so vecchia ma troppo giovanile. La gente si fida di me ma non mi crede, non mi crede. Dicono che sono schiva, che sono simpaticissima, che sono una persona difficile, che so vedere.